vorrà girare America, ma c'è lontano assai. Vorrà girare America, ma c'è lontano assai. Simpatico ne d'amore, comute pure su abbandonare. Simpatico ne d'amore, comute pure su abbandonare. Levate peggio, levate ciuto muire. Levate peggio, levate ciuto muire. Asira te curchi tarde la mattina me fa le mani. Asira te curchi tarde la mattina me fa le mani. Come mi sei simpatica, amore tina mia. Come mi sei simpatica, amore tina mia. La bella come ti è, nulla io vista mai. La bella come ti è, nulla io vista mai. Pigliati me sti forbici, lume da giusta cece. Pigliati me sti forbici, lume da giusta cece. Lu voglio ciù bellezze, ca voglio santità. Lu voglio ciù bellezze, ca voglio santità. Sembrano un mazzolino di fiori.